177. Fritto alla romana secondo. Questo fritto potrete farlo quando avrete d'occasione un petto di pollo arrostito o per una quantità all'incirca uguale dell'antecedente. Eccovi le proporzioni. Petto di pollo grammi 50, lingua salata grammi 40, prosciutto grasso e magro grammi 30. Parmigiano una cucchiaiata, un piccolo tartufo, o mancando questo, odore di noce moscata. Al pollo levate la pelle e tagliatelo a piccolissimi dadi, e così pure la lingua e il prosciutto, il tartufo a fettine. Fate una balsamella con latte, decilitri 2, burro grammi 30, farina grammi 30. Quando questa sarà cotta, versateci gli ingredienti suddetti e lasciatela adiaciar bene per servirvene usando le ostie come nel precedente.